fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È sempre Ron Wood, stavamo parlando di musica fuori onda. È sempre mercoledì 31 di ottobre 2018, ovviamente convento di Nonato, ovviamente è la festa di Halloween più paurosa, non lo so, forse no, lo chiederemo ai nostri ospiti, a coloro che la stanno vivendo in prima persona, lo chiederemo a Max. Che dici, Max, festa paurosa o festa divertente? Che ne pensi? Diciamo un mix di cose, sì. Paurosa, divertente, ma ci stiamo cercando di divertirci. Ci stiamo spaventando, divertirci spaventando, no? Guarda, alla mia età spaventarmi... Non ti spaventa più nulla, c'hai la corazza. Mi spaventava una volta, no? Più tanto. Adesso cerco di divertirmi spaventandomi, divertendo. Bello, cioè, che è difficilissimo. È un concetto che complicato, ma complicato, raggiungibile. Quest'ora raggiungibile. Ecco, sì. Ma tra l'altro, tu da cosa sei vestito? Se sei vestito? No, è tutta un'improvvisazione. Io sono uscito di casa. Sì. Ho messo questa qua che sarebbe una sciarpa. Sì. Ma nel posto sbagliato, perché ce l'hai in testa. Inizialmente era diciamo diretta al collo. Uh-huh. E poi ho detto: ma aspetta un attimo, me la metto, visto i capelli un po' lunghi. C'è pizzetto. Un po' pirata come è, un po' pirata come mood, come stile, no? Secondo me si presta di più qui. Sì, molto adatta. E molto ho riscontrato adatta. Più successo così. Più successo? Più successo. Successo nel senso che ha colpito l'abbigliamento. Ha colpito l'abbigliamento. Di dove sei tu? Di Nonato, quindi quasi di casa. Cosa fai nella vita, se posso chiedere? Niente di che, niente importante. Ci può anche fare pubblicità, non so, dipende che cioè se è legale o illegale. Oh, è un lavoro legale, sì. Allora, se vuoi, ci mancherebbe. Tanto questo è uno spazio libero e per questo vediamo modo a chiunque di raccontare la propria vita. Se parte della tua vita cioè vuoi raccontare, non c'è problema, puoi fare pubblicità, nessun problema. No, non sto scherzando. Hai altre domande? No, certo, altre domande. Parliamo, se ti va, di feste. Come le vivi tu? Cioè, sei uno tradizionalista, inteso, che ti piace festeggiare, ti piace il Natale, la cena, il regalo, ti piace Halloween, travestirti? Tutto, cioè, ti piace la consuetudine o sei uno a cui non vale dire film? Si vestono tutti, ma io non mi vesto, no? Non mi vedi che sono uno... No, beh, io chiedo per capire un po' il mondo, no, per capire le persone. Abbastanza propenso, diciamo, sportivo, libertino anche se vogliamo, tutto, e quindi no, le feste. Poi quelle di Natale, ma tu mi hai detto Natale. Sì, è un esempio di festa. Natale ci si veste? No, nel senso, Natale inteso come tradizione da festeggiare, cioè il regalo, la cena in famiglia, è un certo tipo di clima, un certo tipo di atmosfera. Perché non so se tu conosci che c'è proprio un partito degli antagonisti di Natale, cioè di gente che sta da sola, che non festeggia, che lo odia proprio. Quindi volevo capire se tu sei uno amante della celebrazione, chiamiamolo così, della festa, della ricorrenza, o non ti piace partecipare. Il Natale ultimamente diciamo che abbastanza, cioè, già da un po' di anni si sente meno. No, però no, è vero, non sono quello che così interista che lo vuole proprio. No, a me piace anche alcune cose, cioè, le canzoni di Natale sono belle, sì, ecco, no, ok, a me piace la musica, sì, e quindi devo dire che le canzoni di Natale sono comunque sono belle e ti danno quell'idea di Natale, oppure ti però, piacciono musicalmente? Ovviamente dopo un po' stufano. Però a me piacciono. Mm-hmm. Però devo dire che è un po' una cosa, forse anche una forzatura, no, Natale. Certo. Un po'. È per quello che dicevo. Perché... Non per tutti può essere una festa che è bella, perché magari per alcuni può essere anche. Sai. Lo sai anche tu, non hai capito. Certo. No, beh, io non sto parlando. Cosa voglio dire? Certo, no, non sto parlando Natale, di ricordi brutti. Bravo, quello sto parlando. Che magari se uno non si dice... trova una situazione bella. Sì, ma al di là di quello non sto parlando di ricordi belli o brutti, sto non parlando proprio del saltare, chiamiamolo così, sul carro della felicità. Ascolta, a tutti i costi. No, io però ho sempre preferito più tanto il. Si può dire più tanto. Sì. Di più capodanno, vabbè. Io sono il capodanno. Più festaiolo, più. Più da capodanno. Pepe. Ah, Trennino. Insomma, qua è un'intervista che dura tantissimo. Ma se, no, stanco. No, finito. No, sto scherzando. No, si scherza. No, devo... Parlavi poi di sport, sono sportivo? Sportivo. Tipo? Sì. Tipo? Facciamo. Noi facciamo corsa, ciclismo. Noi chi? Un gruppo? No, io. Ah, no, credevo noi abbiamo un gruppo, un'associazione sportiva. No, ok. Sì. Faccio un po'. No, mi do gli sport. Bene. Che è sempre un buon modo di passare il proprio tempo libero, anche per. Cioè, è più un'esigenza di sfogarsi o una passione? E fa parte del trucco, fa parte del gioco. Poi non so perché me l'abbiano fatto, perché non m'hanno. Non ti piace? Un naso. No, ma ha messo sta punta nera. Non dispiace, no, non ti piace. No, sì, no. Ci sta. Halloween. Halloween, sì. Più ti modifichi. Magari esatto, meglio. Dal vivo mi piace di più. Ma penso di no. Penso che sia meglio così. Cioè, nel senso che sia una versione migliore questa rispetto però alla versione naturale. Sei un bravo DJ. Bene, ti ringrazio. Questa cos'è, posso chiedere, è una radio online? Noi abbiamo sì questo spazio web che web radio che va in internet, va in diretta in questo momento, e però va anche in replica e in podcast, quindi potenzialmente si può ascoltare sempre, dovunque e da dovunque, perché con l'app che abbiamo ci puoi seguire in qualsiasi momento. Questa qui è una occasione. Diciamo che da un po' di anni è una buona, diciamo, opportunità che può dare internet. Certo. Perché certo. Era dei tempi, tu conosci la storia delle radio, no? Sì. Sai quando sono nate nella 70. Negli anni 70 le famose radio libere, yes. No? Certo. E lì è stato un momento di libertà, di ribellione, in cui potevano i giovani esprimere delle cose, certo. Che poi dopo probabilmente non c'è più stato per anni, perché poi le radio sono diventate commerciali. È arrivata la pubblicità, è arrivato il soldo, e il denaro. Quello lì è stato un momento. Adesso sembra quasi che con internet ci sia di nuovo questa cosa. Tornata con la libertà, anche perché la parte bella è che sta tornando appunto questa passione grazie anche alle università, perché davvero? Tantissime università hanno la radio interna. E quindi tanti ragazzi giovani si avvicinano e scoprono la bellezza di questo mezzo. Di poter parlare grazie all'università. È una bella così, eh? Sì, però in un momento in cui ci sono pochi posti, pochi spazi per fare esperienze, per fare corsi, per fare formazione gratuita. In questo caso l'università spesso dà questa possibilità. Anzi, ti dirò di più, c'è addirittura un concorso annuale che premia la miglior radio universitaria, quindi c'è una sorta di classifica annuale di tutte le radio universitarie. Bello, sì. È una bella cosa, anche perché i giudici sono spesso radiofonici esperti, professionisti, direttori artistici e di radio. Io sono uno che ascolta molto la radio. Chi vuoi, com'è, come non è, se incontri quello giusto, se cerchi la voce giusta, è l'occasione della vita. E è successo anche che da una radio universitaria ti sei trovato il giorno dopo a parlare a milioni di persone. Ad alcuni è successa questo colpo di fortuna. Bello. Una bella chiacchierata. Assolutamente, bello, sì. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? No, ma... Buon Halloween a tutti, allora. Stiamo sullo standard. Buona serata e venite tutti al convento, no? Che diciamo, Sì, dillo, che tanto fa sempre bene. Venite tutti al convento, vi aspettiamo. Sì. Grazie mille Max, anche noi ti auguriamo una buona serata, grazie, un buon divertimento e una buona notte. Ciao!